Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi per Europa 24. In apertura subito le sanzioni europee contro la Russia. Accordo unanime tra i 28 ambasciatori europei sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, ma la loro entrata in vigore viene rinviata di un numero imprecisato di giorni. L'Europa si riscopre divisa sull'atteggiamento da tenere verso Mosca. Il nuovo round di misure punitive resta così in sospeso come una spada di Damocle sulla testa di Putin. Cronaca di una giornata dal finale a sorpresa, quella di ieri a Bruxelles. A ora di pranzo si dava per scontata l'approvazione delle sanzioni e la loro entrata in vigore oggi. Filtravano anzi indiscrezioni sulla possibile inclusione dei giganti russi dell'energia Rosneft, Transneft e Gazprom tra le entità che avrebbero sofferto pesanti limitazioni nell'accesso ai mercati finanziari in Europa, un duro colpo per Vladimir Putin. Poi l'imprevisto, la scadenza per il via libera alle sanzioni viene spostata di 3 ore prima che una riunione straordinaria degli ambasciatori sancisse il compromesso, determinanti i dubbi di 2 o 3 paesi, tra cui la Finlandia, che col suo primo ministro Stubb definiva le misure non necessarie in caso di un miglioramento della situazione. L'Europa tiene aperte tutte le opzioni, se la tregua reggerà, le sanzioni potrebbero venire riviste in parte o persino completamente. Ieri è stata una giornata importante anche sul campo. Il presidente ucraino Poroshenko ha annunciato che i ribelli filorussi hanno rilasciato 1200 prigionieri dell'esercito regolare dopo il cessate il fuoco di venerdì. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Germania vuole mantenere l'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2015. Questo è uno dei temi in discussione oggi nella seduta del Bundestag dedicata al budget tedesco. Il ministro delle finanze Schäuble ha affermato che, nonostante la fermata della locomotiva tedesca dovuta alle tensioni geopolitiche internazionali, va mantenuta la strada del rigore per non generare una nuova crisi di fiducia. A luglio l'Italia è stato l'unico paese dell'Eurozona a riscontrare un aumento rilevante della disoccupazione, 0,3 punti percentuali al 12,6%. Lo rileva l'OCSE precisando che nell'insieme dell'Unione Monetaria il tasso di disoccupazione a luglio è rimasto stabile all'11,5%. In Italia resta inoltre eccezionalmente alta la disoccupazione giovanile, 42,9%. Migliora in Italia la qualità dell'istruzione di base secondo un rapporto OCSE. In base ai test PISA per la matematica, tra il 2003 e il 2012 diminuita la percentuale dei quindicenni con un punteggio basso, aumentati i più bravi. Tra 2008 e 2012 buste paga di insegnanti di elementari e medie giù in media del 2%, e dal 2005 al 2012 le retribuzioni statutarie di ogni grado e con 15 anni di esperienza a meno 4,5%. Una perdita compensata, dice l'OCSE, in parte comunque a livello individuale dagli scatti di anzianità. Tra il 1995 e il 2011 la spesa per studente segna meno 4%, e tra i 34 paesi OCSE presi in esame l'Italia è l'unico che registra un calo della spesa pubblica per istruzioni scolastiche tra il 2000 e il 2011. L'Europa riparte da Torino, ottobre ritorna nella sua città natale, carta sociale europea come strumento a favore dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Firmata a Torino il 18 ottobre 1961, questo trattato del Consiglio d'Europa garantisce le libertà e i diritti fondamentali della vita quotidiana. Per rilanciarla, il 17 e 18 ottobre al Teatro Regio di Torino ci sarà una conferenza di alto livello per i diritti sociali voluta dal Consiglio d'Europa nel quadro della presidenza italiana dell'Unione Europea in collaborazione con la città di Torino. Giuseppe Zaffuto è portavoce del Consiglio d'Europa al microfono di Anna Marino. Non bisogna dimenticare che diritti fondamentali della vita quotidiana, quali la casa, la salute, l'istruzione, il lavoro, la tutela giuridica e sociale, se vogliamo anche la non discriminazione, sono contenuti della Carta come trattato internazionale. Diritti sociali che non sono dei diritti da dimenticare. Oggi si parla tanto di crisi finanziaria, di spread, di problemi economici che affliggono tutti i nostri Stati membri, ma i diritti sociali rimangono centrali perché fanno parte della vita quotidiana di tutti noi. Non sono solo pronunce, non sono solo regole, ma sono anche sanzioni. La Carta stabilisce anche la possibilità di reclamare per le violazioni. Come? Esattamente, abbiamo il comitato, il cosiddetto Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che controlla i reclami collettivi. Fondamentali i reclami collettivi perché permettono alle organizzazioni sindacali nazionali ed internazionali, alle organizzazioni dei datori di lavoro, se vogliamo, e anche alle organizzazioni non governative di presentare dei reclami al comitato. Anche in Italia questa procedura è già stata effettuata con vari reclami che sono sotto osservazione da parte della Carta qui al quartier generale a Strasburgo. È tutto per Europa 24 di oggi, vi saluta qui Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.